Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Avrei dovuto parlare del tempo o delle abitudini alimentari del mio paese, lo so. Invece chiesi di raccontarmi dei giorni delle barricade. Cadde il silenzio. Poi Jan cominciò a parlare. E di colpo si fece di nuovo silenzio. Era arrivato l'ospite necessario, quello non desiderato. Sembrava il bambino spione che tutti abbiamo incontrato a scuola e che un giorno ritroviamo sul lavoro o altrove. Scoppiò a ridere, sicuro di aver interrotto una conversazione proibita. Io presi coraggio e dissi: parlavamo dei fatti della scorsa primavera. Lui rise ancora e rispose: nessun fatto, nessuna primavera. Sono Brunella Saccone, ho 44 anni, nata a Napoli, però vivo da praticamente quasi da sempre a Caserta e lavoro attualmente da circa 20 anni all'Istituto per il Commercio con l'Estero. È il 15 di dicembre del 2011, sono le 16:07, questa è Radio 24 in diretta da Milano, dalla sede di questa radio. È uno di questi giorni in cui ti accorgi che veramente nessuna primavera, perché quando ti svegli in questi giorni un po' ti penti di non essere scappato da questo luogo anni fa. Poi fortunatamente tutto passa e dal 21 di dicembre le giornate cominciano ad allungarsi. Tutto passa, ma nelle giornate come queste ha senso invece raccontare e sentire storie come quella di Brunella, un po' perché ti portano via dal grigiore che attanaglia questa città e questo paese in questi ultimi giorni, ma soprattutto perché raccontano di storie avvenute molto lontano da qui, con persone che probabilmente nessuno di noi incontrerà mai, di cui solo sentirà parlare, e che storie come questa, che raccontano storie di dissidenza, storie di ribellione, in qualche modo, come dice Brunella nel suo racconto, anche amorosa, e capirete perché racconta appunto di una storia d'amore che di fatto non comincia nemmeno, che non si consuma, ma soprattutto di una storia di dissidenza e di ribellione, anche se silenziosa. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it, la vostra ribellione più grande, anche se non siete stati dei dissidenti politici, come è il caso dei protagonisti di questa storia. Avete fatto qualcosa che in qualche modo si discostava dall'opinione comune, vi siete ribellati. Questa roba succede soprattutto da bambini, ed è arrivato un messaggio sul profilo Facebook del programma Matteo Caccia, io sono qui, di Luca, che dice: il mio più grande gesto di ribellione, il motorino usato comprato con la mia paghetta contro la volontà dei miei genitori, la catena messa dai miei perché avevo usato ribellarmi, e io che seguo la catena di notte tutte le notti per un mese. 349-238-6666. Ancora: sono stato un bambino con le idee chiare, scrive Giovanni. Una volta mia madre mi sgridò e chiuse dicendo: ora vai in camera tua e rimanici per un po'. Io ci andai e tornai dopo qualche minuto, senza aprire bocca, quindi in silenzio. Le consegnai un foglio. Mia madre rimase a bocca aperta. Con la calligrafia di un bambino che sapeva da poco come farlo, avevo scritto: io non accetto ordini da nessuno. Quel foglio mia madre lo conserva ancora oggi, e te credo. 349-238-6666. C'era un messaggio di, eccolo qua, di Chiara. Non sono un integralista al riguardo, non so a quale riguardo esattamente, Chiara, però riguardo forse alla dissidenza in generale. Anch'io ho i miei bei peccatucci, ma cerco di esercitare una quotidiana ribellione attraverso uno stile di vita equo, solidale, silenziosa ma attiva. Dai, Chiara, dai, che secondo me tu puoi fare di più. Noi ci aspettiamo molto di più da te, Chiara. Un po' più di ribellione, un po' più di sgomitamento. Roberto, Itis Majorana di Cesano Maderno, provincia di Milano, quinta superiore. E subito abbiamo la collocazione storica. Per saltare una verifica di inglese con una prof che sembrava il Fuller. Come il Fuller? No, ragazzi, vi ringrazio di là dal vetro che mi correggete, che dice Fuller. Però Roberto ha scritto Fuller, ma proprio F-I-U-L-E-R. Vabbè, con una verifica d'inglese con una prof che sembrava il Führer, abbiamo messo in piedi un'occupazione con conseguente autogestione durata 5 giorni. In quella scuola non succedeva una cosa del genere da 10 anni. Roberto, probabilmente esattamente in quei giorni lì hanno spiegato come si chiamava Führer e come si scriveva. 349-238-6666, la vostra più grande dissidenza. La storia di oggi però è una storia che arriva da lontano, nel tempo e nello spazio, arriva dalla Cina, è la storia di Brunella.

la mia testa appoggiata sulla sua spalla e il suo faccione grande e sorridente. E un'altra ad una festa di soli occidentali, con un bicchiere in mano e un'allegria un po' triste. Poi le nostre strade si divisero. Per un paio d'anni mi telefonò una volta al mese. Mi chiedeva cose semplici del tempo, dello studio, della mia vita. Telefonate brevi, di un'intensità che si trasmetteva oltre le parole e non necessitava dettagli. Poi smise. Ho scoperto con una piccola ricerca che si può definire dissidente una persona che si oppone a un'opinione già stabilita e diffusa. In politica il dissidente non è semplicemente però colui che la pensa in modo diverso, è quello che esprime il suo dissenso e che lo manifesta in qualsiasi modo. Cioè, essere dissidente significa non essere d'accordo e farlo capire. Solzhenitsyn in Unione Sovietica, Gandhi in India, Martin Luther King, Nelson Mandela, per fare qualche esempio. Certo, questi ovviamente erano degli eroi e la loro storia la conosciamo, però credo che nel nostro piccolo, in qualche ambito, siamo stati dissidenti un po' tutti, prima o poi. Io, ad esempio, ero contrario alle flessioni sulle braccia durante gli allenamenti di calcio, non so perché, però potevo correre un'ora, fare addominali ripetute, scatti sul posto, allunghi, qualsiasi cosa, ma le flessioni non le sopportavo. Non lo so, forse non mi venivano bene, oppure mi ricordavano Rocky, che era un film che mi aveva fatto impressione, non lo so. So solo che cercavo ogni maniera per non farle, o per farle male apposta addirittura. Quella però non è stata l'unica volta in cui mi sono trovato a dover combattere contro un'imposizione. Altre cose piccole, tipo a tutti piaceva Daitan 3, a me no. A tutti piaceva Alberto Tomba, a me no. A tutti piacevano le vacanze di Natale, a me mettevano tristezza. A tutti piaceva Vasco Rossi e a me pareva che ci prendesse in giro. A tutti piacevano i Nirvana, io invece ho cominciato ad ascoltarli un paio d'anni fa. Che non vuol dire essere più o meno svegli o più o meno intelligenti. Io la vedo semplicemente che ci sono quelli che tifano una squadra di calcio perché vince e quelli che invece la tifano perché per qualche motivo gli sta simpatica. E quel motivo non si spiega. È tipo la bellezza, che certe volte in un difetto c'è qualcosa che ti attira più di una perfezione. Ecco, e anche oggi nel mio piccolo io cerco di avere un pensiero, come dicono quelli bravi che la sanno, un pensiero un po' laterale. Non significa non vedere il mondo com'è, è cercare di avere un punto di vista che non sia sempre quello che gli altri si aspettano. E avere un'opinione personale, che per me è pensare, ad esempio, che è bello cambiare strada. Ogni volta che si deve andare in un posto, lo stesso. Ad esempio, quando vengo in radio, io lo faccio abbastanza spesso, una volta giro l'incrocio, un'altra volta giro quello dopo, però non faccio mai la stessa. E se mi va, e se ho tempo, magari faccio anche un pezzo di strada in più, giusto per vedere un posto nuovo. Sì, lo so, non è che sia sto grande gesto di dissidenza, eh. È semplicemente un modo per ricordare a me stesso che non sono dentro a una corrente sempre uguale e che sto sempre in quel flusso. Però un pochettino sto andando dove voglio e sto seguendo il percorso che decido io. E poi, ad esempio, non mi vesto con roba di marca, oppure sì, ma solo se c'è qualcosa che proprio mi piace. Sì, lo so, è banale, però mi fa stare un po' meglio. Secondo me tutti abbiamo i nostri momenti di dissenso. Contro il cartellino da timbrare, contro le code alla mensa, contro i produttori di scarpe scomode o i registi di basso livello, anche solo contro il mondo nei giorni in cui siamo arrabbiati con tutto e con tutti. E ognuno di noi fa qualcosa per farsi notare. Magari è una cosa piccola, ma la fa. Mi ricordo, avevo un compagno di classe, Alessandro si chiamava. Alle medie non sopportava la professoressa di scienze. Diceva che era una donna incapace di emozioni e che per fare l'insegnante dovevi avere una certa passione. Era già uno precoce a quell'epoca. Comunque lui era un tizio abbastanza vivace, pieno di energia, sempre in movimento. Però quando arrivava la professoressa di scienze, lui manifestava pacificamente, ovviamente, il suo dissenso, con una specie di sciopero dell'attività. Stava al suo banco in silenzio, assoluto e immobile. Non che facesse chissà che, però era convinto di attuare una forma di protesta molto convincente. e non aveva smesso di studiare o di seguire le lezioni, semplicemente se ne stava muto e immobile. Alla fine dell'anno in scienze ha preso il voto più alto della classe e nel giudizio è stato classificato come studente modello. Questo ricordo lo fece arrabbiare tantissimo, ma non c'era niente da fare, ormai era andata così. Era stato dissidente, ma nel modo sbagliato, anzi forse nel modo più sbagliato che c'è. Out of the way. 349 238 6666. Superiori, sbraito contro la prof di filosofia, offendo sua madre e comincio a rovesciare i banchi. A distanza di due giorni dal preside le suggerisco di cambiare lavoro e alla fine vinco io. Matteo da Treviso. Ma il miglior gesto di dissidenza lo troviamo su un commento del profilo Facebook del programma, da Stefano: pago le tasse e anche la musica. Non si tratta di pagare tasse, non si tratta nemmeno di pagare la musica. La dissidenza che ha visto con i suoi occhi Brunella era chiaramente una cosa molto diversa. E magari ce la facciamo spiegare da lei. Pronto, Brunella? Ciao. Ciao, come stai? Bene, bene. Senti, la prima cosa è: quanti anni fa succedeva questa cena? Questa cena succedeva nel 90. Nel 90? E dov'era? Perché è una storia che parla di Cina, ma non ti trovavi in Cina. No, ero in Giappone. Ero con una borsa di studio del Ministero della Pubblica Istruzione in Giappone e c'erano da poco stati fatti di piazza Tiananmen ed eravamo tutti all'ultimo anno di università, per cui siamo stati un po' sbattuti di qua e di là per il mondo, che in Cina, che in Indonesia, che in Giappone. E quindi in Giappone dove ti trovavi esattamente? A Tokyo. Senti, invece, innanzitutto si dice Yan o Ian? Yan. Yan, ok. Ma un po' è Yan. Ok, vabbè, la lascio dire a te che non sono particolarmente capace. Di lui non hai più notizie da quanto? Da quanto tempo? Dal 92, 93. Quindi di fatto sono durati 2 o 3 anni poi le corrispondenze. Sì. Senti, che ricordo hai di quella serata esattamente? Cioè, loro erano figli di dissidenti o erano dissidenti loro stessi? Loro erano figli per lo più di professori universitari. Lì era una situazione un po' strana che non aveva niente di simile al nostro paese. Perché oltre ai cinesi c'erano anche i filippini, c'erano anche altri ragazzi che con queste borse di studio venivano tenuti lontani da casa in momenti politici difficili nel loro paese. Quindi solo loro, le famiglie erano ancora in Cina di fatto? Le famiglie erano ancora in Cina, loro erano studenti stranieri come me con una borsa di studio e di fatto erano i figli dissidenti di famiglie importanti. I futuri rampolli del paese, che per evitare che venissero contaminati dalla rivoluzione venivano mandati fuori a studiare. Ma e quindi c'era una forma di senso di colpa? Totale, totale. Per essere lontani dalla battaglia in qualche modo? Completamente. E quella che avrebbe potuto essere quella sera una valvola di sfogo, un momento catartico in cui poter dire questa cosa ci è stata impedita, è stata completamente negata. Senti, e oggi com'è la situazione invece? Tu nel senso che tu non hai perso i contatti completamente? Sì, ma non sono neanche sinologa, non lo so. Non lo sai, ok. Senti, invece tu cosa fai però esattamente? Allora, io lavoro all'Istituto per il Commercio con l'Estero e in questo momento sono una signora soppressa. Cioè? Vivo attaccata all'emendamento sperando che succeda qualcosa. No, me la spieghi questa, scusami, perché? È un ente di quelli che è stato soppresso. Ah, soppressi, sì. Completamente? In attesa di un risuscito. Siamo attaccati all'emendamento come un respiratore. Senti, nel caso in cui il respiratore cedesse, hai alternative? Cioè, che specifica hai tu? Qual è il tuo ruolo? Cosa fai? In questo momento sono il responsabile dell'ufficio e da 20 anni mi occupo di promozione del commercio estero. Beh, allora, Brunella, in bocca al lupo direi, perché dal tono della tua voce mi sembra che veramente rimanete attaccati alla spina di quel respiratore. Senti, io ti ringrazio per la tua storia, e per la telefonata e per la chiacchiera. E in bocca al lupo per tutto, ovviamente. Credi. Ciao Brunella, grazie. Ciao. Voi siete qui. Ogni giorno sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui, trovate un disegno che racconta a modo suo, cioè a modo dell'autore di quel disegno, racconta il racconto del giorno, cioè la storia di oggi. Ad esempio la storia di questa cena avvenuta in Giappone tra dei ragazzi cinesi, una italiana e questa sorta di spia che si trovava tra loro all'epoca. È un disegno che ha fatto Bice Gadda Conti, che fa parte del secondo e terzo anno del corso dello GIAD di Milano, e che illustrano le puntate da qui fino ai primi di dicembre, anzi fino a fine dicembre. Ci sono dei ragazzi cinesi intorno a un tavolo, e poi c'è una ragazza italiana con gli occhi bassi, italiano quantomeno occidentale, e sul tavolo c'è l'immagine simbolo della dissidenza cinese, un carro armato con davanti un uomo con due buste. Oggi si parlava di dissidenza, abbiamo cercato di capire, di spiegarmi, che tanto, più che altro di capire che cosa volesse dire, e ci è venuta in mente forse la più famosa storia di dissidenza, in questo caso per quanto riguarda la segregazione razziale, metà degli anni 50, metà del 1900 negli Stati Uniti. È una storia che risale esattamente al primo di dicembre del 1955. La protagonista si chiama Rosa Parks, qualcuno di voi probabilmente la conoscerà perché dalla sua storia poi è stato anche tratto un film che si chiamava La lunga strada verso casa, con Whoopi Goldberg. La storia è molto semplice: Rosa Parks è una sarta che sale su un autobus a Montgomery, che è una cittadina degli Stati Uniti. Sale su questo autobus dove all'epoca, proprio per via della segregazione razziale, i neri dovevano stare seduti in fondo all'autobus. Lei non trova posto perché è tutto occupato, e trova un posto solo nella parte che era dedicata ai bianchi. Dopo qualche fermata salgono dei bianchi, l'autista si ferma, le dice di alzarsi per lasciare libero il posto, e lei semplicemente non lo fa. Rimane seduta, l'autista blocca l'autobus, chiama due poliziotti che arrivano e l'arrestano. Lei viene arrestata e incarcerata per condotta impropria e per avere violato le norme cittadine. Da lì succede un vero e proprio delirio, perché 50 leader delle comunità afroamericane si ribellano, decidono azioni per reagire all'accaduto, e di fatto incomincia il boicottaggio dei mezzi pubblici della cittadina. Quello che vi leggo adesso è in particolare l'articolo pubblicato sul Montgomery Advertiser, che era il giornale della cittadina, pochi giorni dopo l'accaduto, che racconta che cosa è successo e che cosa sta per succedere. Quindi è il 5 dicembre del 1955. Abbiamo tradotto e mantenuto di proposito il linguaggio che aveva questo giornale, che aveva usato questo giornalista 56 anni fa. Per farvi un esempio, i giornali di oggi, quando parlano di cittadini americani neri, li chiamano afroamericani. In questo caso il termine che veniva utilizzato era negresse, che era un termine proprio, probabilmente derivava dal francese, che abbiamo deciso di tenere proprio nella lingua italiana con la definizione negro. The Montgomery Advertiser, 5 dicembre 1955. Una donna negra ha ricevuto una multa di $10 ed è stata portata oggi in tribunale per avere violato una legge dello Stato che garantisce la segregazione razziale sugli autobus cittadini. Fred D. Gray, l'avvocato della donna negra, ha richiesto l'innocenza per la sua cliente, che è rimasta silente in aula. Il giudice ha chiamato a testimoniare il conducente dell'autobus. Il signor Blake ha detto che, nonostante egli le avesse chiesto più volte di alzarsi e spostarsi in fondo all'autobus per lasciare il posto ai passeggeri bianchi, Rosa Parks, la negra, si è rifiutata di farlo. Durante il processo, fuori dalla corte, si sono assemblati spettatori e curiosi. Nel frattempo, il direttore dei trasporti locali della città di Montgomery ha stimato che il 90% dei negri si stavano rifiutando di prendere gli autobus come segno di protesta nei confronti del comune. Tutti gli operatori dei taxi dedicati ai negri sembra abbiano ordinato ai loro conducenti di chiedere ai clienti solo 10 centesimi a testa nelle fasce tra le 4 e le 9 del mattino e tra le 3 e le 11 del pomeriggio, per facilitare il boicottaggio degli autobus. Per le strade del centro città oggi sono stati visti sfilare numerosi autobus semivuoti, con a bordo soltanto passeggeri bianchi. Una riunione di massa dei negri è stata organizzata per stasera presso la chiesa battista di Holt Street per discutere come proseguire l'azione di protesta e il boicottaggio delle linee cittadine. I volantini distribuiti nei distretti dei negri per fomentare il boicottaggio non erano firmati, e il reverendo Williams, pastore della chiesa dei negri, ha affermato che non farà mai i nomi di chi sta organizzando la protesta, e ha aggiunto che la riunione di stasera sarà aperta anche ai bianchi. Poco prima il direttore delle linee cittadine aveva affermato che era dispiaciuto se qualcuno si aspettava da loro di non rispettare le leggi federali. Durante l'appello di oggi del caso Rosa Parks sono stati ascoltati 11 testimoni. Una donna ha affermato che c'era un sedile vuoto in fondo all'autobus, dove Rosa Parks avrebbe potuto prendere comunque posto se si fosse spostata. We shall overcome someday. Questa puntata l'hanno fatta come al solito tutti quelli che la fanno tutti i giorni insieme a me: Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Margherita Hina e Stefano D'Andrea. La storia che avete sentito oggi era la storia di Brunella e parlava di dissidenza. La storia di domani è la storia di Nicola e parla di vivere e di vedere i mondiali dal Pakistan. Quella che però vi ho letto era, come vi dicevo, proprio un articolo, l'articolo del 5 dicembre del 1955, tratto dal Montgomery Advertiser, cioè il giornale locale di quel paese, di quella cittadina in cui Rosa Parks fece quel gesto di dissidenza che poi fece partire tutte le proteste che sono arrivate fino ad oggi e hanno fatto poi cancellare la segregazione razziale dagli Stati Uniti nel 1956, mi pare, dalla Corte Suprema. Non ricordo bene le date, ma le cercherò e le confermerò più tardi. Quello che voglio fare per oggi è chiudere in un modo diverso dal solito, perché vi ho letto queste parole che risalgono a 56 anni fa, ma ieri sera alle 11 ho ricevuto una mail che usava le parole giuste da usare praticamente poche ore fa. Caro Matteo, sono un padre adottivo di un bambino africano di 10 anni e stasera mi trovo, come molti, a pensare agli ultimi episodi di Torino e di Firenze. La mia riflessione, però, come ovvio che sia, mi riguarda molto più da vicino e ti posso assicurare che inizio ad avere paura. Il mio incipit, però, vedi, contiene già qualcosa di sbagliato. Mi spiego. Mio figlio non è africano. Mio figlio è italiano. Ha un accento bergamasco da tragedia e l'unica cosa che di lui spicca quando è insieme ai suoi amici è il colore della sua pelle. Infatti è questo il fenomeno a cui, almeno io e la mia famiglia, assistiamo e abbiamo assistito per tutti questi anni assieme a lui. È il colorismo. Cioè, sei di un colore diverso, quindi ti tratto in modo diverso. E non sempre male, attenzione, a volte troppo bene, ad esempio, a volte meglio senza nessuna ragione, o meglio, per la medesima ragione, cioè il colore. Ed è proprio questo che crea discriminazione, il colorismo negativo e il colorismo positivo, due facce della stessa medaglia. Ti faccio un esempio di colorismo positivo, è facile, sei nero, quindi sei più resistente. C'era un insegnante che voleva che mio figlio corresse una maratona a 7 anni, perché diceva: quei neri lì ce l'hanno nel sangue. E sai, mio figlio sì, ha un bel fisico, potrebbe anche correre, ma semplicemente non ne ha voglia. A basket, strano, ma è proprio negato. In compenso gioca benissimo a tennis e quando sbaglia smoccola parole stile muratore della Valseriana. Eppure c'è sempre qualcuno che si stupisce e a niente vale l'esempio delle sorelle Williams o l'esempio del tennista francese Tsonga. Io mi chiedo spesso se aveva ragione Einstein quando diceva che l'unica cosa infinitamente grande di cui si può appurare l'esistenza è la stupidità umana. È per questo che ho sempre più paura, per me, ma soprattutto per mio figlio colorato. Ciao, Alberto.